brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina so dove inizio, ma mica so dove andrò a finire. Prendiamo il punto di partenza, me lo suggerisce questa mattina, ho davanti a me il Corriere della Sera, cronache sanguinose di delitti il cui movente è la gelosia. A una festa, dopo un delitto, un ex fidanzato accoltella la ex fidanzata e poi lui stesso si pianta il coltello nel cuore. Questo accade in provincia di Trento, ma il giornale, come sempre si fa in queste occasioni, mette tutti i precedenti. Qui almeno ci sono quattro foto di donne che sono state uccise per motivi simili. A giugno del 2008 a Roma, uccisa dal fidanzato Loredana; agosto 2008 Arezzo, Silvia, uccisa anche lei dal suo compagno; settembre 2008 Bergamo, Natalia, anche lei uccisa dall'ex marito; novembre 2008 Verona, Maria Riccarda, uccisa dal marito assieme ai tre figli. Fu la breaking news che ha interrotto la nostra puntata di venerdì. Quindi è attualissimo questo concetto che ancora la molla segreta, irrazionale, giustificata, immotivata, motivatissima della gelosia possa portare l'uomo a uccidere. Beh, è una epica e ormai storica vicenda umana in cui la gelosia è il più irrazionale dei sentimenti, soprattutto l'uomo geloso, improvvisamente può scatenarsi lui un animale incontrollabile. Tanto che Shakespeare ne fece oggetto di una delle sue più drammatiche rappresentazioni. Immaginate il Moro di Venezia che assolutamente senza motivo, assolutamente seguendo, facendosi abbindolare da un filo sottile di sospetti alimentati ad arte da chi aveva voglia e desiderio che lui si perdesse dietro questa perversione, arriva a strangolare il fiore della sua esistenza, la donna meravigliosa e bellissima che nemmeno lui in cuor suo sapeva di meritare. Signore mio, devo chiedervi di farmi tanto, tanto contenta. Sì, sì, dimmi, per te tutto sarà davvero, fatto. Davvero, ti te giuro. Sì, sì, te lo giuro. Rimettere al suo posto Cassio, poverino. Cassio? Sì. Era Cassio, era Cassio. Allora lo perdonate, lo rimettete al suo posto. Sì, sì, ho detto così, basta. Grazie. Ma? Perché dici ma? Certo, Cassio non ha mica colpe. Lui è bello, è giovine, è di carnagione bianca. Chi se lo sarebbe aspettato che Desdemona? Che? E non ti arrabbiare. Diventi nero, pare che mi vuoi mangiare. Come sarebbe a dire che se lo sarebbe aspettato Desdemona? Quello che volevo dire è che Desdemona è come tutte le altre. Desdemona come tutte le altre? Sì, proprio così. Adesso ve l'ho detto e mi sento con la coscienza a posto. Se è vero la sventro, gli tirerò il collo come una gallina. Purtroppo. Questa è la rivisitazione di Otello che fece Pasolini in Che cosa sono le nuvole. A interpretarla erano delle marionette di Totò, Ninetto Davoli, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Laura Betti che faceva Desdemona. Fu l'ultimo film in cui recitò Totò e a un certo punto il pubblico del teatrino delle marionette non regge il peso della tragedia, soprattutto la rilettura della tragedia, irrompe sul palco e fa pezzi le marionette. Perché? Perché è profondamente e drammaticamente coinvolto in quella che è probabilmente una tragedia che tutti, seppur in graduazione diversa, viviamo. Il morso della gelosia e le soluzioni al morso della gelosia. Venne un'epoca felice, fortunata, celebrata, epicamente narrata e di cui gli strascichi ancora sono fortemente intrise, le punte più avanzate del nostro pensiero, in cui venne fuori una prima possibile soluzione. Era quella della coppia moderna, della coppia aperta. E non trovo rappresentazione reazionaria, per questo meravigliosa, più calzante che il tormento di Alberto Sordi quando Monica Vitti in Amore mio aiutami comincia a palesemente, visto che erano i tempi in cui le cose si dicevano, a confessargli, ma non è una confessione perché non c'è colpa, a raccontargli che lei si è persa lungo la strada della loro vita matrimoniale per un amore probabilmente che le ha fatto perdere la testa. E dicevo che io sono veramente fortunata, sai, ad avere un marito come te, che mi ha proprio insegnato tutto, perché tu hai una concezione del matrimonio, della vita, assolutamente moderna. Aprami questa scatoletta. Cara Raffaella, io non faccio nessuno sforzo ad essere un uomo moderno, perché è nella mia natura. Ma sai, forse dipenderà anche dalla tua educazione. Ma la mia educazione me la sono fatta tutta da solo, sai. Ho accettato certi determinati principi, sono un progressista, credo nella ragione e non nelle passioni. Se sapessi come mi fa piacere sentirti parlare così. Sai, erano giorni e giorni che volevo confidarmi con te, ma non avevo il coraggio. Perché? Beh, perché è una cosa un po' delicata. E che c'è di delicato che non si possono confidare marito e moglie? Anche le cose più intime, tutto bisogna dire, senza pudore. Questo è il bello del matrimonio. 800 24 00 24, è proprio questo il bello del matrimonio, che ci si può e ci si deve dire tutti. Noi donne siamo un po' come quella Monica Vitti lì, basta che uno sembri guardarci un po' e delle volte ci innamoriamo. Poi di solito spignattiamo tutti i mariti, fidanzati, con dovizia di particolari. È il nostro essere Anne Karenine, dice Daniela su Facebook, dove già da qualche minuto ferve la discussione su quello che oggi io ho proposto come argomento. L'impietosa evoluzione di Alberto Sordi, marito consapevole di essere tradito. Oh, che ti è successo, stupidina? È successo. È successo che mi sono presa una sbandata per un altro uomo. Hai sentito quello che ti ho detto? No. Ho detto che mi sono presa una sbandata per un altro uomo. Giovanni, che hai fatto? Oddio. E non lo vedi il sangue? Tu fai la spiritosa e io mi sono tagliato un dito. Ah no, sai, io non ho nessuna intenzione di fare la spiritosa. Ti ho proprio detto che ho preso una sbandata per un altro. E me lo dici così? Oddio, ti senti male? No, e lasciami, mi ha preso un giramento di testa. Non è niente, sai, è la pressione. Vi siete mai trovati in una situazione simile? Avete mai pensato che la soluzione potesse essere quella di una franco e tranquillo e sincero rendiconto su quelle che sono le uscite di senno, le uscite di strada in una coppia consolidata? Beh, voi direte, infatti poi vi farò sentire il seguito di questa vicenda di Alberto Sordi e Monica Vitti, cioè il momento fatale, fatidico, quando lui ha abbandonato totalmente il vestito del marito moderno, del marito comprensivo, della coppia con apertura controllata, la porta sulla spiaggia, penso di Ostia, la butta sulla sabbia, la prende a cazzotti e chiude il pugno e gli la prende a pugni e la picchia talmente tanto finché lei dice che non lo ama più. Ma in realtà ci si rende conto che non è la strada della violenza, non è rimpugnare nuovamente lo scettro del maschio dominatore che ferma le pulsioni dei sensi e del sentimento quando scattano. Alla fine il film finirà con Monica Vitti che segue il maestro di musica che l'ha persa così fortemente, prima dal sentimento, dalla sensibilità estetica, dalla attrazione artistica, dal fashion dell'intellettuale, argomento di cui abbiamo già parlato, ma a un certo punto la perderà totalmente, la farà perdere totalmente. Beh, tutto questo ve l'ho raccontato perché io sono sottoposto da qualche settimana a forti pressioni da parte di uomini ascoltatori che mi propongono continuamente quello che sembra essere un rovello contemporaneo, soprattutto sentito dal pubblico maschile. Senza prendere posizioni di giudizio, senza esprimere pareri, condanne, assoluzioni, condivisioni, ve lo porgo così come me l'hanno raccontato, in una delle più raccontabili sfumature di questa tendenza, che sembra quasi una moderna medicina per reagire alla gelosia, per impedire che si scateni il delitto di Otello, per trasformare quello che è un veleno, come se fosse una medicina omeopatica, in una possibile cura e allo stesso tempo in un farmaco che dia, se possibile, nell'ambito delle lecite fantasie che ogni essere umano può avere, una soddisfazione maggiore. Io ho 36 anni, mia moglie ne ha 34. Conosco mia moglie da 15 anni, sono sposato da 10. Da quando l'ho conosciuta ho sempre avuto un po' quella fantasia di sapere che magari può eccitare altri uomini e comunque altri, magari altri uomini la possono trovare intrigante, eccitante. Lei comunque è sempre stata un po' provocatrice. E mi ricordo che all'inizio questo mi dava fastidio, perché magari uscivamo, lei era vestita in un certo modo, mi dava fastidio che la guardasse. Nello stesso momento provavo anche degli stimoli, un'eccitazione, no? 50 e 50. Un po' ne ero geloso e un po' la cosa mi intrigava. Facilmente potreste dire: ma questo è uno stato patologico, dovresti avere un medico, uno psicanalista, qualcuno che ti analizzi le radici della patologia. Ma sono perfettamente d'accordo che non esista possibilità in una coppia di una così palese e masochistica persecuzione di ciò che spaventa e fa paura, trasformato quasi in una sorta di gioco condiviso. Poi devo dire, essendo veramente tante le persone che mi proponevano, chi timidamente, chi apertamente, chi in maniera del tutto impudica, chi con particolari da film a luci rosse, questa apertura che non è mai stata così palese nella coppia, soprattutto le nostre latitudini, noi soffriamo di alcune patologiche e quasi romanzesche perversioni nel gioco di coppia, nell'accentuare la gelosia, nell'essere possessivi. Improvvisamente gli italiani sono scoperti apertissimi a questo punto di vista. Non sto a entrare nei particolari, ma lo lambisco soltanto per vergogna di chi mi ascolta. Non è oggi questo l'argomento, non è lo scambio delle coppie, non è la pornografia condivisa, non è la messa in piazza dei propri reciproci divertimenti e passatempi coniugali. Ma qualcosa è molto più sottile, è l'aver trasformato la follia perversa di Otello in una altrettanto folle, ma probabilmente non perniciosa al punto di creare e lasciare una scia di sangue, follia matrimoniale. La cosa è voluta che magari lei, tornando a casa dal lavoro, mi dice: guarda che hai conosciuto questo ragazzo qui, è molto più giovane di me, e sai che mi ha invitato ad uscire. Allora io gli dicevo: ma perché non ci esci? Allora io magari la provocavo, no? Gli dicevo: perché non ci esci? Sei un ragazzino, cosa vuoi che esco come un ragazzino? Insomma, finché è uscita con questo ragazzo. Ecco, e da lì è un po' cominciata questa cosa. Allora lei magari quando tornava a casa mi diceva se era successo qualcosa, come magari mi diceva anche che non era successo niente. È facile mettere in contrapposizione a distanza di pochi decenni i due punti di vista. Probabilmente il regista di Amore mio, aiutami, che è proprio lo stesso Alberto Sordi, che è anche l'interprete principale, film degli anni 70, vuole sottolineare quella che allora sembrava una aberrazione altrettanto perversa quanto oggi può sembrare alle orecchie del pubblico più legato alle tradizioni, questa dichiarazione di questo uomo che mette in piazza tranquillamente quello che è un aspetto che comincia a lambire l'ambito della patologia, cioè lui a un certo punto ha trasformato la sua gelosia quasi in una ricerca ansiosa di avere continua conferma di quello che sospetta. Probabilmente ossessionato dal fatto che la moglie possa tradirlo, ha trasformato questa ossessione in una sorta di gloriosa e quotidiana celebrazione. C'ha davanti, la conosce, la riconosce, la cerca, ci fa i conti ogni giorno, ma non come qualcosa di oscuro, di limaccioso, qualcosa che deve cercare ogni giorno la sua prova. No, lui la prova ce l'ha quotidianamente. È la prova condivisa del gioco che ha messo su con sua moglie, del fatto che la moglie frequenti altri uomini, purché lui lo sappia, purché lui sia complice di questa frequentazione. E questo che poteva essere una chiave di separazione, di frattura profonda, di interruzione drammatica, tragica, cruenta, delittuosa di un'avventura matrimoniale, come nei fatti di cronaca che vi ho raccontato, diventa per lui probabilmente il cemento. Almeno così immagina, così pensa. Non ho una casistica, non ho una lettura psicopatologica di come vadano poi a finire queste cose. Ve la pongo semplicemente come mi viene posta. 800240024, visto che c'è uno straordinario ed eloquentissimo e rumorosissimo silenzio di telefonate questa mattina, che probabilmente si toccano argomenti di cui o non si sa l'esistenza, o se si sa si tengono nascosti nelle pieghe più riposte della propria emotività, della propria esperienza passionale. Vi leggo qualche messaggio che invece sta arrivando su Facebook, perché scrivere è molto più facile che far sentire la propria voce. E su questo sì, si sta cominciando invece un dibattito. Ileana dice: quante volte si è chiesto, vedendo una coppia bizzarramente assortita, ad esempio per età, come nell'intimo funzionasse. Per non parlare di strafighissime ragazze straniere con scorfani nostrani. Scusate, è da tempi dei miei antenati romani che accade che andarono in Sabina apposta. Quindi il cemento o la chiave di soluzione o l'impalcatura su cui si reggono probabilmente molti rapporti che all'apparenza sembrano o stare insieme perfettamente, ma poi si scopre soltanto quando vengono messi o l'uno o l'altro, entrambi i coniugi, entrambi gli amanti, in un sacchetto di plastica con la cerniera lampo, perché qualcuno ha alzato la mano, ha interrotto ciò che faceva male, o naturalmente quando la coppia sta assieme, però a prezzo di alcuni arzigogoli di cui nemmeno ci immaginavamo l'esistenza, nemmeno ci immaginiamo se non siamo colti da queste possibili soluzioni. Ai tempi del film di Alberto Sordi, in realtà, la soluzione sembrava molto diversa. Il tradimento contenuto, comunicato e vissuto assieme poteva avere una sua particolare e possibile soluzione. Vattene via, non mi toccare, brutta mascalzona canaglia. Ma ti rendi conto che mazzata in testa mai dato? Che vuol dire sfondata per un altro uomo? Chi è quest'uomo? E non strillarmi. Ma hai detto che potevo dirtelo senza pudore, ma allora non sei coerente. Ma che coerente? Voglio sapere chi è, dove l'ha incontrato e soprattutto voglio sapere una cosa. Che rapporti hai avuto con lui? Ripeti la domanda. Ti ho chiesto che rapporti hai avuto con lui? Questo è l'atteggiamento di Alberto Sordi anni 70 di fronte alla possibilità di dialogo, di apertura, di consapevolezza, di vivere assieme anche in momenti difficili. Comincia naturalmente ad alzare la voce e lei risponde con uno schiaffo. Invece nella contemporaneità il nostro desideroso e bisognoso di rivelarci il fardello delle sue angosce o delle sue sublimi perversioni a seconda del punto di vista, così diventa il problema. Mi raccontava un po' la cosa che ci faceva insieme e anche quando tornava a casa noi avevamo avuto un rapporto di che tipo. Dopodiché l'apoteosi per me era avere un rapporto con lei immediatamente dopo. Questa complicità sembrava assurdo. Mi è servita anche a stimolare un po' il matrimonio e a dare nuovi input, nuovi stimoli. Anno 2008. Di fronte alla domanda «hai rapporti con lui?», risponde felicemente la signora, perché sa che il racconto, il romanzo, la telecronaca o la telenovela della sua uscita con l'amante rappresenta la più fantasiosa e gradita delle rappresentazioni familiari possibili per suo marito. Cosa ben diversa quando negli anni 70 la pur liberata, pur faticosamente affrancata moglie Monica Vitti dice al marito il fardello del suo problema sentimentale e al fatto che lui risponda subito quali rapporti ha avuto con lui, cioè c'è stato qualcosa di fisico, così reagisce. Ma perché mai preso? Per una puttana nel marciapiede? Ringrazia Dio che c'è il braccio rebattizzato. Ma perché, amore? Io ho chiesto solo. Che rapporti hai avuto con lui? Ma che rapporti? Ma sei diventato matto? Ma ti dà di volta il cervello, sì? Ma se lui non sa nemmeno che io lo guardo? No, amore, non lo sa. No, amore mio, non lo sa. Non lo sa. 800240024. Otelli contemporanei, meglio essere traditi mille volte con la testa o è peggio essere traditi soltanto una volta con il corpo e mai più nella vita? Quali sono le soluzioni? Avete mai posto questo problema all'interno della vostra coppia? So che è molto difficile rispondere. Provateci. Melog 2.0. qualsiasi persona con lei è bravo a letto, a me mi stimola essere ancora più bravo. Infatti io chiedo, voglio sapere tutto, voglio sapere cosa fa, voglio sapere se è dolce, se non è dolce, se è romantico, se non è romantico, perché conoscendo bene mia moglie so se questa persona sbaglia o questa persona comunque riesce a trovare la strada giusta per sedurla e per fargli provare certe cose. Quindi per me è uno stimolo anche migliorare, soprattutto negli ultimi anni va veramente a gonfie vele. Certo. È chiaro che a sentire frasi del genere ogni subdolo indefesso, malandrino e spietato trombatore delle mogli altrui si sente affrancato, quasi un benefattore da questo punto di vista. Dice, vedi, faccio del bene all'umanità. Laura mi scrive su Facebook, è la censura sociale che determina il comportamento del tradito. Una volta essere cornuti era considerato il peggiore status sociale, la peggiore cosa che potesse accadere a un uomo, tanto è vero che si poteva ammazzare la moglie, fedifrega. Oggi è diverso, mi dice sempre Laura, e quindi il tradimento è vissuto in altro modo. Si può arrivare ad esempio ad essere orgogliosi di avere una donna che attira altri uomini e sa piacere e dare piacere. È vero, molti uomini sembra che si portano dietro le mogli, le fidanzate, le compagne agghindate per creare scompiglio in altri uomini attorno a loro, e probabilmente è il primo passo verso questo tipo di comportamento che è così lucidamente e sinceramente raccontato dal nostro amico. Poi c'era un altro messaggio che era interessante, vediamo se lo riesco a trovare, me ne stanno arrivando talmente tanti. Mi citavano una canzone, La Comune, di Giorgio Gaber, che racconta proprio qualcosa del genere, sto dicendo a memoria, ah, eccola qua, me lo dice Leonardo, dice, vi ricordate La Comune di Gaber? E mette tutte le parole, devo dire che è fantastica questa maniera di avere un archivio palpitante e intelligente, che mi pone in diretta le sollecitazioni che nemmeno io avevo mai pensato prima, non perché io sia qualcosa di particolare, ma... contaminare esperienze altrui con le esperienze redazionali che abbiamo messo assieme nel fare questa trasmissione è senz'altro un arricchimento. Tentola comune, non esiste proprio più niente che sia possesso, è molto più normale volersi bene, finalmente non è più un problema nemmeno il sesso, dice la canzone di Gaber. Da te non me l'aspettavo, ti credevo una ragazza sana e pensare ti stimavo, ti comporti come una puttana. Amo la comune, la tua donna preferisce un altro, ma è naturale, non fa niente se si ingrossa la tensione, poi l'angoscia, poi la rabbia più bestiale. Amo la comune, senza più nessun ritegno, se arriva ad odiarsi alla fine esplode la tensione, come bestie, come cani, ci si sbrana a morsi. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Lei concorda con il signore che ci ha mandato questa testimonianza che esista anche un aspetto erotico nell'avere interesse per le attività fedifreghe del proprio coniuge? Assolutamente sì. Ce lo racconti. Quando ero ragazzino, verginello, pensavo che la prima donna che mi si sarebbe concessa sarebbe stata anche l'unica. Ci avrei fatto 10 figli e mai mi sarebbe venuto nemmeno lontanamente in mente di poter pensare a un'altra donna. Ma ha avuto un'educazione bella pesantina, che di solito quando un ragazzino pensa tutt'altra cosa, che lei già pensava da ragazzo questo, poverino, è giusto che poi abbia pensato da adulto quello che di solito si pensa da ragazzi. Invece mi sono reso conto che la situazione è un po' diversa, onestamente. Mi sono sposato. Lo dico con dolore, ma è così purtroppo. Infatti, c'è tanta cattiva gente in giro. Ma poi in fondo, sono arrivato alla convinzione che l'essere umano, insomma, noi non siamo portati alla fedeltà, ma più che da un punto di vista mentale, da un punto di vista proprio anche di libido. Sì. Nel senso che è molto eccitante poter guardare le altre e gli altri, poter pensare a quello che ci si potrebbe fare, a come saranno quando ci troviamo a letto con loro. Ma infatti, non siamo fedeli. Non a caso c'è un comandamento che dice non desiderare la donna d'altri. Sapendo il Padre Eterno la debolezza umana, l'ha posto come limite perché in nome di una regola, di una... possibilità di contenere il disordine dei sentimenti, degli accoppiamenti, delle specie che si mischiano, è stato detto non devi desiderare la donna degli altri, ma se è stato detto in maniera così solenne, una delle 10 regole dell'Antico Testamento, vuol dire che era abbastanza diffusa nella natura umana il desiderio per la donna altrui. Ma qua stiamo parlando del desiderio di di avere, di saggiare, conoscere e immaginare il desiderio per la propria donna da parte degli altri. Infatti, esiste anche il burka per questo, tra l'altro, per quello che riguarda la religione musulmana. Ah beh sì, taglia la testa al toro, per modo di dire. Esattamente. Ora io, tra l'altro, l'aspetto che più mi infastidisce della mentalità, chiamiamola all'antica, quella che poi esprime anche Alberto Sordi in quel film, è che gli uomini più donne hanno e più gloria hanno, le donne sono subito puttane. Vabbè, questo è vecchio come il mondo. Lo so, però purtroppo è profondamente ingiusto, non se ne capisce la ragione, poi alla fine... Quindi lei giustifica con un senso di giustizia tra generi questa sua capacità, desiderio comunque trasgressivo di vivere la gelosia come in realtà una forma di eccitazione, non come una forma di mortifero senso di uccisione di ogni rapporto. Lo fa anche lei per il bene delle donne, ecco, diciamo così. Anche, certo, ma io penso che laddove funziona sia un rafforzante notevolissimo di, lo dico anche per esperienza personale, laddove funziona è un rafforzante del rapporto incredibile. Nel senso che proprio, come diceva forse anche l'ultimo ascoltatore di prima, quando si crea una solidarietà e una complicità incredibili nella coppia, diciamo, originaria, quella... Lei ne ha esperienza di questo, se posso? Io ho qualche esperienza, sì, ho qualche esperienza. No, visto che siamo qui per raccontare. Poca, ma ho qualche esperienza e funziona. Nel senso, se... E è condivisa. Se di volare più alti delle famose corna, della famosa puttana, si sta meglio. Quindi diciamo è corretta la ricostruzione storico-filologica che abbiamo fatto. Otello, Alberto Sordi, la coppia aperta e consapevole che la trasgressione, invece che diventare un momento di visione mortale, può diventare un momento di unione. E diventa sicuramente, io sono convinto di questo. Bene, questa è la sua opinione. Funziona assolutamente un'unione... Anzi, diventa ancora più indissolubile. Diventa il cemento. Va bene, io già mi stanno arrivando i primi maliziosi e impertinenti ascoltatori che mi chiedono coordinate geografiche sugli ascoltatori che sono così generosi nell'aprire l'intimità coniugale anche ad altre persone, ma questa è una trasmissione seria, stiamo approfondendo un problema di tipo sociale, non siamo qui per dare indirizzi delle aperture altrui. Cristiana, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho un'idea molto personale, considero, sono quasi 20 anni e sono sposata con 3 figli, però considero il rapporto di coppia come un piatto principale, come fosse una bella bistecca, visto che siamo in Toscana. Uh-huh. E questi scivoloni che possono succedere siano solo dei contorni, non fanno altro che rafforzare quello che è il piatto principale. Non con questo uno ne sia orgoglioso di avere un compagno che ogni tanto si allieta di qualche contorno diverso, ma comunque mi fa sentire sempre più il piatto più importante. Sì. Ecco. Non che questo... Se mi permette... No, scusa che la interrompo, perché lei sta dicendo una cosa forse un po' diversa, se non ho capito male io. Lei dice ogni tanto mi faccio uno spuntino, così mi stuzzica l'appetito e mangio più volentieri la solita bistecca. Okay. Sì, però questo spuntino lo racconta alla bistecca o se no sono due, diciamo, no, momenti diversi? Ecco, non è che è una cosa palese, però trova la maniera e il modo di farmi sapere che comunque uno spuntino è successo. Ah, quindi lei subisce gli spuntini altrui? Sì, li subisco, però in maniera soft, nel senso... La vita del matrimoniale non è come prima, che a 40 anni le persone morivano, si campa viva Dio per tanti anni, e se uno vive nel terrore, oddio, sarà comunque per sempre, tutta la vita davvero davvero, non ci posso credere. Quindi mi fa, non dico piacere, ma mi rendo conto che siamo persone, per esseri viventi, che hanno anche tantissimo rispetto per la moglie, perché veramente mi rispetta e mi adora. Quindi lei è la moglie che tutti vorrebbero, che ci lascia la corda lunga. Benissimo, adesso una corda lunga, sì. Sì, il guinzaglio un po' lunghino. Però adesso non posso fare a meno e farle una domanda. Signora, lei è mai stata spuntino? È mai stata, scusi? Spuntino lei di qualcun altro? No. Quindi... Però mi sarebbe piaciuto parecchio, gli dico la verità. E perché non l'ha fatto? Non l'ho fatto perché comunque mi vergognavo un po', ma non di fronte al mondo, importa assai, uno si allontana, non è che ha bisogno di farlo vedere davanti a tutti, però ecco, non era la mia indole, però non significa che se io non sono quella che si fa gli spuntini ogni tanto non debba accettare qualcun altro? Guardi, lo dico e per questo sarò lapidato. Lei è la moglie che tutti vorrebbero avere accanto, che in fondo è pronta a chiudere un occhio, anzi vede quasi benevolmente il fatto che il prosciutto di famiglia ogni tanto si faccia prendere una fettina da qualcun altro, però dal suo punto di vista è integerrima, rimane l'angelo del focolare. 800240024, adesso avete materia per parlare. Melog 2.0. Lei mi dice, ma come fai ad accettare tutto questo? Comunque è una persona normale, a parte quelle fantasie che magari può avere una qualsiasi altra donna, no? Non riesce proprio a capire come posso. Infatti all'inizio è andato un po' in crisi, perché ha detto, se tu mi spingi a fare certe cose vuol dire che non mi ami. Dopo ha capito che per me sono due cose completamente distinte. Lei è molto selettiva e non è per niente facile, nel senso che con 15 anni che sono insieme lei ha avuto solo tre storie, tra virgolette lunghe, quindi non ha rapporti occasionali, ha sempre trovato persone che comunque l'hanno rispettata, l'hanno corteggiata. Questa è la storia da cui siamo partiti, l'ascoltatore che continua a dirci con orgoglio che le scelte alternative della moglie non sono scelte compulsive, non sono scelte basate sulla quantità, sono sempre scelte di gusto, e lui, devo dire, che si sente il sommelier che consiglia la bottiglia migliore alla moglie perché poi lei possa raccontarle quale sia stato il retrogusto. Stasera devo uscire con quel ragazzo che ha avuto una storia di 3 anni. Io spero di tornare a casa presto perché voglio vedere quando si prepara, perché comunque lei mi ha detto, dimmi tu cosa mettere stasera, dimmi tu come mi devo truccare, le scarpe devo indossare. Lei mi coinvolge al 100%, da quando mi chiede, sai che mi hai chiesto di uscire, posso uscire, a quando magari si sta preparando, si deve preparare, che per me è tutto un rito molto importante, non c'è solo l'appuntamento o la o quello che può fare mia moglie per se stessa, perché magari stasera non succede niente, anzi penso che non succede niente e tutto muore lì. Essere a casa lì ad aspettarla magari per ore è un po' una tortura per me, perché comunque provo gelosia, provo ansia, però provo anche una profonda eccitazione. Chi passa il tempo con il bricolage, chi colleziona gli insetti, chi gioca a scacchi, chi passa il tempo in internet, chi gioca con Facebook, chi invece è regista e protagonista, primo attore, pubblico, tecnico delle luci, costumista, scenografo di questo teatrino familiare. Renzo, buongiorno. Buongiorno. Lei dice che è soltanto un alibi questo. Sì, non avete toccato un punto che è molto importante. Lo tocchi lei, siamo qua apposta per sentire. Omosessualità, inconfessabile omosessualità. Sì, guardi, questa è una lettura psicoanalitica di questo fenomeno. La volontà di vedere e scopare un vero uomo, possibilmente. Magari perché, se usiamo termini... Io non ho pregiudizi di tipo lessicale, ma usiamo la metafora che rende anche meglio l'idea. Vedere un uomo in azione, ecco, diciamo, esatto, così. Esatto, siamo anche esatto. Alla radio, qualcuno può disturbarsi. Sì, va bene. Non faccia il pudico. Pudico. Un uomo in azione. So, io posso dirlo, lei no, ecco, tanto diciamola chiara, è così. Io lo posso dire. Io ho 70 anni. È proprio quella, 70 anni. Ne ho avute a bizzeffe. Ma guarda, chi si vanta troppo, chi si loda, no, si sbroda. No, per carità. Poi guardi, io vivo 6 mesi in Francia. In Francia è ancora peggio di qua, guardi. Perché si godono nel vedere l'uomo in azione, tutto lì. Sì, si eccitano vedendo quello. Questa predilezione francese per l'apertura della coppa. Vabbè, ma adesso viene anche in Italia, non è beh, diciamo che è già venuta raro, da qualche anno, diciamo che internet ha favorito il libero scambio. Ecco, lei dall'altezza della sua esperienza, del suo aver viaggiato, quello che una volta veniva considerato, se ne parlava sottovoce, come una perversione d'Oltralpe, i francesi fra le tante cose... È cominciata là forse, ma là sono più liberi, più aperti di cervello. Sì, no? Ma non trova che oggi alle nostre latitudini sia diventato un gioco un po' troppo popolare? Perché la perversione entra finché nell'ambito della letteratura, del racconto detto sottovoce, può avere qualche fascino. Ma quando diventa come il SUV, quando uno apre internet e vede il macellaio sotto casa, il ragioniere, la collega d'ufficio in ammucchiate multiple, dice vabbè basta, siamo stufati. Sì, vabbè, no, ammucchiate no, ma il triangolo sì. Vabbè. Perché in noi, lei sa benissimo che c'è una componente maschile, ma c'è una componente femminile. Quindi lei insiste sull'aspetto psicoanalitico patologico. Sì, per l'uomo si eccita molto vedendo un altro uomo in azione, poi la sua funzione la fa meglio. Ecco, tutto lì. Perché immagina di essere lui la donna che in realtà non è. Va bene, grazie. Buongiorno Renzo. Gabriela, buongiorno. Buongiorno. Mi piace intanto sentire qualche voce femminile, sennò sembro complice di elucubrazioni di maschiacci. Vediamo se lei ci riporta su un piano più soft. Allora, diciamo che io non sono d'accordo, non approvo il punto di vista della storia che ci ha fatto ascoltare. Secondo me, in quel caso, non so, lui dice che funziona nella loro coppia, ma secondo me... per uno che funziona, nella maggior parte non funziona, perché è un gioco molto rischioso. Io ho visto, al contrario, cioè una donna che diceva sì, ti piace quell'altra ragazza, allora vai. Cioè ha avuto amiche che le hanno raccontato questa storia. Sì, però hanno fatto il ragazzo si è messo con questa ragazza, insomma... Diciamo che queste cose vanno molto sul filo del rasoio, allora il matrimonio forse... Ma è diffuso, secondo lei, dal suo punto di vista, è una tendenza diffusa o questa tendenza siamo inventati qualcosa così, che stava solo nella testa della persona che ci ha chiamato? Ma secondo me non è così tanto diffuso, comunque io non lo approvo e soprattutto non approvo neanche quegli uomini che vogliono far mostrare la loro moglie alle altre persone, cioè che dicono alle mogli di vestirsi un po' da battone, tra virgolette. E questo accade? Questo accade secondo lei? Beh, accade, nel senso che anche qui io ho un'amica che mi ha confessato candidamente che il marito vorrebbe... che lei si vestisse in un modo molto provocante, tra l'altro lei già ci si veste, ma sfortunatamente lei questa ragazza è una persona proprio candida, non mi piace, insomma mi farebbe sentire proprio un oggetto. E cosa le chiede il marito alla sua amica? Come? Cosa chiede il marito alla sua amica? Di vestirsi in modo molto provocante, perché così, non so, forse si sente appagato quando gli altri uomini la guardano, ma invece la moglie è solo sua. Non mi piace, mi fa sentire un oggetto. Magari se un giorno mi gira, mi voglio vestire in un modo provocante, lo faccio perché lo decido io, non perché c'è mio marito che mi spinge, che mi dice che gli altri mi devono guardare. Non mi piace, ecco, io... Questa, secondo lei, è una... aberrazione oppure idea soltanto maschile, non esiste al contempo una voglia femminile di mettere in mostra il proprio uomo per sentirselo invidiato? Sì, sono d'accordo, cioè in linea di massima può accadere, io lo posso anche capire in linea di principio, però di fatto non chiederei a mio marito di mettersi, non lo so, insomma... A far mostra dei suoi muscoli perché così le altre donne me lo invidiano, non mi piace, cioè mi sento più sana da questo punto di vista, cioè mio marito mi piace, me lo godo al di là del fatto che le altre donne lo possano guardare o no. Ma noi siamo nati con questa trasmissione con l'idea che possa esistere soluzione al dramma insanabile del geloso consapevole. Sentiamo proprio in conclusione qual era la soluzione che aveva proposto allora Alberto Sordi alla moglie, che candidamente aveva confessato soltanto un amore di testa, di sentimento. Provò con questa letterina, ma non funzionò. Adesso mi levo la giacca, ci mettiamo qui, sereni, tranquilli, e scriviamo la letterina studiando insieme parola per parola. Oh, io proprio questo voglio, che tu mi aiuti. E io ti aiuto. Cerca di non interrompermi e ascolta bene con molta attenzione. Egregio professore, i nostri incontri del mercoledì pomeriggio, che avvengono in un clima di falso misticismo e di ostentata intellettualità, quelle passeggiate sotto gli antichi colonnati in un clima rarefatto e un po' irreale, sono in netto contrasto con quella che è la mia vera natura. In un'epoca come la nostra, in cui l'uomo è ancora impegnato a risolvere i gravi problemi della fame e della sopravvivenza, ritengo che non sia giusto concederci momenti di evasione e di egoistico individualismo. Perciò, egregio professore, non si meravigli se il prossimo mercoledì, durante il concerto, lei avrà al suo fianco non più la signora Raffaella, ma una sedia vuota. Addio. Già, questo è il rovello insanabile, questo è il punto di caduta, questa è l'aspirazione mai appagata di ogni uomo, conoscere la vera natura della sua donna. La vera natura per Alberto Sordi era quella di una integerrima moglie che non cedeva al sentimentalismo dell'intellettuale che allora sembrava minare, nella fine degli anni 60, così radicalmente la centralità dell'uomo che invece aveva la responsabilità dei gravi problemi della società. La natura che oggi l'uomo scisso, poco consapevole e poco sicuro della propria mascolinità, è di avere vicino una donna che in realtà è una donna che si occupa della famiglia, del lavoro, di tutti gli interessi, ma lui vorrebbe che fosse anche qualcos'altro. Se questo qualcos'altro non è per lui, si accontenta che sia per altri, purché ne sia testimone. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.